Piazza Navona, si fanno le feste dal tempo di Domiziano, dal Medioevo, e al fu Campus Agonis tra Moro e Nettuno. Romana ha sempre imperato, e l'ubriacone di Piazza Navona ti chiede dei soldi per riderci sopra. Ragazzo che attraversa la strada per lunghe tre ore per non essere solo, e poi c'è una chiesa che è recintata dalla paura di essere violata, ed ancora i lampioni poveri di luce, ma originali perché antichi, e le finestre Piazza Navona le ho viste sempre soffocate dai mendicanti, dai cantanti pazzi che chiedono il feeling pure ai piccioni, ed incontri anche chi girovago da anni ti racconta la sua vita e ti riempie di gioia o di rabbia, ed incontri anche chi spogliato gesti per poi farne una moda. E a Piazza Navona c'è chi danza, chi suona, chi ascolta, chi parla, chi dipinge il tuo viso, chi ti regala dei baci, chi ti ride di dietro, chi si vende la madre, chi digiuna nel sonno di sogni ed incontri gli abbracci oramai scontati di vecchi amici senza nome, e gli squarciatori del silenzio irrompono con i frastuoni che hanno del goliardico dell'assurdo. È a Piazza Navona, tu compri la vita, tu compri la morte del tuo corpo. Ma Piazza Navona ti risponde cantando: non importa se è un ghetto, chissà, forse cambierà.